Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Un fatto gravissimo si profila all'orizzonte del nostro paese. Bisogna fare qualcosa e subito. E la ricerca proprio qui da noi ci sta lavorando per evitare la tragedia. Oggi Foodlab vi racconta come l'innovazione nelle tecnologie del cibo sono impegnate a scongiurare un vero dramma. Stiamo uscendo dalla crisi, ma questa prospettiva ci segnala un paese che potrebbe essere in ginocchio con questa notizia. La prospettiva catastrofica di cui sta parlando Federico è: nel 2050 mangeremo tutti della pasta scotta. Inevitabilmente. No, in realtà non è così, no. Ci auguriamo che non sia così. Per questo abbiamo con noi Luigi Cattivelli, intanto benvenuto. Grazie. Lei è direttore del Centro di Ricerca per la Genomica, che è una struttura del Consiglio Nazionale per la ricerca in ambito di agricoltura, insomma. Noi adesso abbiamo un po' scherzato, però in realtà voi avete fatto uno studio molto serio su come sarà l'atmosfera nel 2050 e come ovviamente influenzerà le colture e in particolare quella del grano. Quello che io volevo dire con inevitabilmente, non che non si cerca una soluzione, ma che se non facciamo qualcosa sarà scotta per forza. In un certo senso questo è giusto. Quello che abbiamo fatto noi, abbiamo attualizzato l'atmosfera del 2050, quindi ne abbiamo riprodotta ad oggi con un sistema sperimentale che consente di arricchire l'aria in CO2. Sì, perché già sappiamo che nel 2050 saremo pieni di CO2, questo è un dato di fatto ormai. Questo è un dato certo, su questo non ci sono dubbi, qualunque sia i comportamenti che metteremo in atto da qua al 2050. Okay. In questa condizione poi abbiamo coltivato delle piante di frumento duro. Ovviamente abbiamo usato le varietà che sono disponibili oggi, attualizzando l'atmosfera del futuro. E cosa è venuto fuori? Cresciute sono cresciute? Cresciute sono cresciute, le piante crescono sostanzialmente allo stesso modo. Se aumenta la CO2 nell'aria, una pianta ha più cose da mangiare, quindi fondamentalmente cresce di più. Un primo risultato è che si ha un aumento della produzione, e però questo aumento di produzione, come in molte altre situazioni in cui si verifica un aumento produttivo, è collegato a una diminuzione, una piccola diminuzione del consumo di proteine. Questo è un fattore importante nel frumento duro, perché le proteine sono il principale parametro qualitativo della pasta, sono quelle che rendono la pasta al dente. E quindi cosa succederebbe? Che come la si cuocesse nei soliti 8 minuti diventerebbe scotta, oppure bastano 3 minuti addirittura ed è già scotta? Cosa succederebbe? Questo succederebbe se usiamo le varietà di oggi nell'atmosfera del 2050, avremo una perdita della tenuta alla cottura della pasta. Questo qua per quello che riguarda la componente legata alla materia prima. Bisogna considerare che la pasta come tale, la tenuta della cottura della pasta, dipende dalla materia prima, ma dipende anche dal processo di trasformazione. Quindi se noi utilizziamo il processo di trasformazione standard e usiamo le varietà di oggi cresciute nell'atmosfera del 2050, avremo una perdita della tenuta della cottura. Però questo è una previsione, cioè noi sappiamo che succederà così, ma la cosa importante che va chiarita è che noi abbiamo 30 anni o 40 anni di tempo per preparare le nuove varietà che saranno quelle che saranno idonee a questa atmosfera. Ecco, infatti 2050. Qua diciamo si aprono due strade: o diciamo per sempre addio alla pasta al dente, o facciamo qualcosa. Ebbene, voi avete pensato a questo qualcosa. Guardi, in generale nella ricerca genetica legata alle piante si fa sempre qualcosa, cioè le piante che coltiviamo cambiano in continuazione, se arrivano ogni anno vengono selezionate nuove varietà idonee alle condizioni del momento. Il senso di questo esperimento che abbiamo fatto noi è quello di capire cosa servirà nel 2050, cioè di coltivare queste piante oggi in quell'atmosfera per capire che cosa serve, vedere quanta diversità genetica c'è per questo carattere e quindi impostare la selezione per arrivare nel 2050 con le varietà giuste. Però bisogna fare qualcosa subito, mi viene da dire. Lei dice ci sono 30 anni, sì, però bisogna lavorarci e lavorarci bene. Qui cosa bisognerebbe fare? Studi dal punto di vista genetico, lei diceva? La cosa che è uscita da questo tipo di esperimento è che non tutte le varietà, anche quelle attualmente esistenti, si comportano allo stesso modo. Abbiamo varietà che rispondono in modo diverso alle stesse condizioni ambientali. Quindi, ad esempio, ci sono varietà che perdono molto in tenuta alla cottura e varietà che perdono meno. Questo fatto qua evidenzia una diversità genetica, cioè le piante sono geneticamente diverse per questa capacità di rispondere. Questo qua è la base di tutti i processi di selezione. Quindi quello che noi pensiamo di fare, ma come noi molte altre strutture che lavorano in questo campo, è di cominciare, partendo da questi dati qua, partendo da queste evidenze, capire cosa serve e quindi selezionare varietà che avranno la la composizione giusta per l'epoca. Ma io credo che a chi ci ascolta venga questa domanda: va bene, nel 2050 la cuoceremo 4 primi, 4 minuti, 5. Questa non è la risposta corretta, perché il tempo di cottura di una pasta è il tempo che impiega l'acqua a entrare all'interno dello spessore della pasta stessa. Se uno la cuoce 4 minuti, probabilmente la pasta al suo interno sarà ancora cruda, nel senso che l'acqua non sarà ancora entrata completamente nello spessore della pasta. Quindi quello che ne avremo è una situazione in cui, dato il tempo di cottura necessario per bagnare completamente lo spessore della pasta, poi la tenuta alla cottura del prodotto cotto dipenderà, e dipende anche oggi, da due fattori. Uno è la materia prima utilizzata, l'altro è il processo industriale utilizzato per la trasformazione. Quindi abbiamo capito che, insomma, che dovete lavorare da qui a 30 anni. Non c'è via d'uscita. E diciamo che questo qua è vero per tante situazioni, non solo per questo della pasta. Chi si occupa di genetica delle piante sa che questo qua è un processo che continua tutti i giorni probabilmente da 100 anni a questa parte. E senta, non esistono dei grani invece già pronti? Diciamo che esistono, tra le varietà che oggi conosciamo, alcune che sono probabilmente più idonee a crescere nelle condizioni di alto CO2 che avremo nel 2050, ed altre meno idonee. Però questo fatto qua è una cosa che stiamo ancora appurando e saranno necessari ancora alcuni anni di lavoro su questo settore. Però certamente le varietà del 2050 partiranno da queste che sono già ad oggi quelle meno sfavorite o comunque più idonee al nuovo ambiente. Certo, lavorerete su queste. Questo è il concetto di diversità genetica. Diversità genetica vuol dire che ci sono alcune che sono meglio di altre. Va bene, allora insomma, buon lavoro Cattivelli, avete una ci risentiamo tra una trentina d'anni. Va bene. Avete una responsabilità enorme. Buon lavoro. Grazie. Il dramma è scongiurato, forse. Vabbè, per oggi è tutto. Ci risentiamo presto qui a Foodlab.